Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, molti richiami, li avete sentiti anche dal nostro GR, nell'intervento del Presidente del Consiglio Berlusconi questa mattina a Milano, richiami relativi alla situazione economico-finanziaria. Di questo parleremo nella seconda ora del programma, anche perché sul fronte bancario Berlusconi ha detto: attenzione, non date la colpa ai direttori di banca, spesso anche loro devono rispondere a determinate logiche. Ci è sembrato di cogliere un atteggiamento leggermente di correzione rispetto alle ultime dichiarazioni del ministro Tremonti, ma comunque resta sullo sfondo un appello del Presidente del Consiglio perché si faccia squadra per superare la crisi. Si è definito missionario di ottimismo e di fiducia. Questo nel giorno in cui l'indagine di Federmeccanica, quindi del comparto più importante per la nostra industria manifatturiera, l'indagine congiunturale di Federmeccanica, dicevo, presenta dei dati in cui a giugno l'occupazione è calata del 3% rispetto a giugno del 2008, ma soprattutto il ricorso alla cassa integrazione è cresciuto di 6 volte rispetto ai primi 7 mesi del 2008, cioè da gennaio a luglio del 2009 c'è stato un più 570% di cassa integrazione rispetto ai primi 7 mesi del 2008. Anche qui lo sapevamo, sappiamo ormai per certo che i primi 6 mesi dell'anno dovrebbero essere stati i più duri e che lentamente la situazione si va a normalizzare sui livelli purtroppo che si sono raggiunti, quindi da qui poi la ripartenza e i tempi della ripartenza restano abbastanza un'incognita. Ancora per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria ci occuperemo di Fiat, perché Fiat ha lanciato un'obbligazione, un Eurobond a 5 anni, con scadenza 5 anni, con un rendimento al 7,75% per un totale di 1.250 milioni di euro di obbligazioni. Tra l'altro è interessante perché il rendimento è inferiore dell'1,25%, se non ricordo male, a quello dell'1,5% a quello emesso 2 mesi fa, e quindi sembrerebbe significare e dire che la Fiat è ottimista che questa obbligazione venga collocata sul mercato e che tutte le richieste, che tutte le domande saranno più alte dell'offerta, tant'è che appunto offre un rendimento di 1,5% più basso rispetto a quello di 2 mesi fa. Partiremo in apertura con l'annuale ricerca del World Economic Forum, che è quello che organizza poi il forum di Davos ogni anno, sulla competitività dei vari paesi. La Svizzera è la prima, l'Italia sale ma resta 48esima, ampiamente distaccata da altri paesi. Sarà anche l'occasione per riprendere alcune critiche del ministro Monti agli economisti. Ieri poi all'Università Bocconi, presentando una raccolta delle lezioni sulla crisi, che sono praticamente gli articoli usciti in questi mesi su Sole 24 Ore, lo stesso Tremonti era tornato sul tema degli economisti. Noi restiamo, lo dico subito, sempre molto scettici quando vediamo queste classifiche in cui l'Italia praticamente risulta collocata in posizioni così che ci lasciano, con tutto il rispetto, ci lasciano perplessi, perché siamo preceduti dalla Polonia, dal Sudafrica, dalle Barbados, vicini a noi sono l'India, la Giordania, l'Azerbaigian. Ora che ci distanzino solo 3 posizioni, cioè noi siamo 48esimi, la Giordania 50esima, l'Azerbaigian 51esimo, mi sembra eccessivo. Ne parleremo con gli operatori. Restiamo scettici perché appunto è una classifica che a noi sembra troppo penalizzante, se deve avere un valore anche così qualitativo nel fotografare la competitività di un paese. I mercati finanziari oggi non offrono grandi spunti, nel senso che tutte le borse europee sono praticamente ferme, Parigi più 0,1 come Francoforte, Milano meno 0,1, ma pochissima roba si muove, Londra è l'unica che ha un segnale di vita più 0,4%, e poi c'è Wall Street che guadagna 0,5 punto percentuale. In realtà dentro poi Piazza Affari ci sono titoli che perdono, come Banca Popolare di Milano il 2,2%, Geox meno 2,2, Intesa meno 2,1, Banco Popolare meno 1,3, e i titoli che guadagnano in maniera netta, penso a Tenaris più 3,4 sopra i 10 euro per azione, Prismian più 2,1%, Buzzi Unicem più 1,90%, ST Microelectronics più 1,5% come Pirelli, come A2A e anche Bulgari, Eni, Fiat e Autogrill guadagnano l'1,3%. In netto rafforzamento l'euro sul dollaro è a 1,45 adesso, e quindi si mantiene sempre su posizioni molto, molto forti la moneta unica europea, e non a caso anche il petrolio segue, è aperto in rialzo sopra i 70 dollari al barile. Poi fa notizia l'oro oggi, perché? Perché a New York ha superato i 1000 dollari l'oncia, è la prima volta che l'oro arriva sopra i 1000 dollari l'oncia da febbraio, e questo viene giustificato proprio con la forza dell'euro, la debolezza del dollaro, per cui gli investimenti con un biglietto verde così debole si sposterebbero su un bene rifugio come l'oro. Ultima cifra è quella che riguarda i vostri sms, 349-238-6666. Sì, alcuni di voi ci fanno notare già con gli sms che non ho detto non ho dato la stima su come sta andando la produzione industriale nel settore metalmeccanico, va male, meno 33,7%. Nel secondo trimestre del 2009, quindi da aprile a giugno, rispetto al secondo trimestre del 2008. Adesso arriviamo alla competitività del paese. Ancora due notizie in breve. Secondo lo studio oggi sviluppato dalla CGA di Mestre, in Italia ogni italiano ha un peso tributario ogni anno fatto di sole tasse, imposte e tributi che è pari a 7.700 euro per abitante. In Germania è di 7.000 euro, quindi 700 euro in meno. Solo la Francia sta peggio di noi quanto a peso tributario, 8.000 euro, solo che il livello dei servizi in Francia è, diciamola così, un po' più alto rispetto al nostro, tant'è che la spesa pro capite, la spesa sociale pro capite in Francia è pari a 10.500 euro per cittadino. Un dato positivo, comunque un timido segnale di ripresa, arriva dal settore alberghiero, perché dopo 7 mesi di dati negativi, ad agosto il comparto alberghiero ha registrato un primo timido segnale di ripresa, che chiaramente non basta dire che si fa primavera, ma insomma più 2,3% i pernottamenti di italiani e stranieri nel mese di agosto, che è il dato migliore appunto da inizio anno. E una cosa carina è anche che ricordate la vicenda devastante, lo dico come immagine dell'Italia, perché poi ne hanno parlato tutti i giornali giapponesi e asiatici, di quei due turisti che a Roma, si chiama Yasukui Yamada, il giapponese che con la sua fidanzata si beccò un conto di 695 euro a Roma al ristorante Il Passetto, così lo ridiamo e così imparano anche loro, uno dei più noti nel centro della capitale, a due passi da Piazza Navona, quindi attenzione a Il Passetto. Il 19 giugno scorso, ebbene, il giapponese Yamada ha accettato di incontrare il vice sindaco di Roma con delega al turismo, Mauro Cutrufo, però che la prossima settimana sarà a Tokyo, incontro riparatore. Devo dire che però sul danno d'immagine i cocci ci sono, sarà difficile ripararli, perché per giorni interi la notizia è rimbalzata in tutti i quotidiani asiatici. Complimenti, bravi al ristorante Il Passetto, è così che si promuove l'immagine dell'Italia all'estero. Va bene, parliamo adesso della nostra competitività e quindi del primo tema di questa puntata. È uscito come ogni anno il Global Competitiveness Report 2009-2010 del World Economic Forum, e noi risaliamo un po' le posizioni, nel senso che siamo 48esimi, ma restiamo accompagnati e, diciamo, nel gruppo di paesi, insomma, che, ripeto, obiettivamente mi lasciano perplesso. Anche perché abbiamo guadagnato una posizione, eravamo 49esimi, siamo saliti al 48esimo posto. Resta in cima alla classifica la Svizzera e poi la Svezia, cioè i paesi europei sono Svizzera, Svezia, Danimarca, Finlandia e Germania, ma anche Olanda. Giappone ottavo, Regno Unito 13esimo posto, Francia 16esimo posto, la Cina 29esimo posto, Brasile 56esimo posto, la Russia scende al 63esimo posto. Primo posto, diciamo, Svizzera, davanti agli Stati Uniti, a Singapore, alla Svezia e alla Danimarca. Gli ultimi tre sono Chad, Zimbabwe e Burundi. Dottoressa Irene Mia, che è economista senior al World Economic Forum, in collegamento con noi da Londra. Buonasera. Buonasera. Allora, giusto per unire anche la cronaca e l'attualità italiana, forse un po' provinciale, ma insomma, io vorrei fare ascoltare a lei, ai nostri ascoltatori, quello che ha detto ieri il ministro Tremonti, che è tornato sulla polemica con gli economisti. Non so se anche a Londra l'abbiate seguita. Tremonti, due settimane fa, al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, aveva definito gli economisti incapaci di fare autocritica, tra Mandrake e il mago Telma. Noi abbiamo avuto alcuni economisti ospiti a ribattere in alcuni casi, in altri casi anche a dare ragione al ministro Tremonti. Ieri era troppo ghiotta l'occasione perché il ministro era a un dibattito alla Bocconi, organizzato da Sole 24 Ore, in occasione della presentazione di un libro. La platea era praticamente tutti gli economisti bocconiani, ma non solo. E allora sentiamo come è tornato sulla sua critica al ministro Tremonti. L'errore che mi sembra sia stato fatto da un pezzo, da una parte, da un segmento dell'economia è l'esatto errore della UBES, cioè dire la convenzione di poter formulare delle leggi che non erano di sua competenza. Già fai degli errori se nel campo nomotetico formuli delle leggi universali, ma se sei nell'altro campo, che è quello delle scienze, diciamo, sociali, della casistica, irripetibile, perché ogni caso è fatto, quantità di fattori che non si aggregano secondo logiche atomiche o molecolari, comunque definibili per sequenze definite, ma la vita, i sentimenti, le passioni delle scienze tipiche, delle scienze sociali. Ecco, l'errore che è stato fatto è, a mio parere, è quello di credersi non una scienza ideografica, ma una scienza nomotetica. E lì addirittura di fare, come fece Newton, delle leggi universali. Cioè, l'impressione che in un certo decennio, che per convenzione letteraria mi sono messo a chiamare il mercatismo, in quel decennio un pezzo di economia ha preteso di costruire quel contesto, di configurarsi come una scienza capace di formulare leggi universali, capace di determinare l'esistenza, ha fornito, come dire, la base dottrinaria a una ideologia. Beh, un po' accademico questa volta rispetto a Rimini il discorso del ministro, ma insomma la colpa che dà agli economisti di aver trasformato una scienza ideografica, cioè che descrive, che dovrebbe descrivere quello che capita, in una scienza nomotetica, nomos, che dà le regole, le leggi dei comportamenti e le leggi ineludibili, ineluttabili. Così abbiamo visto non è stato. Allora, ho agganciato questa considerazione del ministro Tremonti, dottoressa Mia, ieri alla Bocconi, perché le dico subito che lei dovrà convincermi che l'Italia è veramente al 48esimo posto nella classifica mondiale della competitività. Non perché non ritenga questo paese per alcuni aspetti un po' competitivo o per nulla competitivo, ma perché a me lascia sempre così un po' perplesso vedere che noi siamo assieme alla Slovacchia, alla Polonia, al Sudafrica, a Barbados, addirittura la Giordania sarebbe tre posizioni sotto di noi, l'Azerbaigian pure, ma insomma com'è possibile che noi siamo, con tutto l'autocritica che possiamo fare, vicini, più vicini all'Azerbaigian che alla Spagna o alla Francia? Ma allora, diciamo che il nostro concetto di competitività forse bisogna spiegarlo, no? Perché per noi la competitività è veramente il potenziale che il paese ha di crescere nel lungo periodo. Sulla base dei criteri che stiamo analizzando quando parliamo di competitività, purtroppo l'Italia rispetto a questi paesi appunto o ha una performance più o meno simile oppure addirittura peggiore. In particolare, non so se lei ha familiarità con il nostro rapporto, però di base consideriamo 12 fattori che secondo noi sono la base di un'economia competitiva. Questi fattori sono molto diversi, vanno dalla qualità delle istituzioni alla qualità dell'infrastruttura, all'efficienza dei mercati, all'innovazione, all'educazione, al sistema educativo nel paese. E nel caso dell'Italia, sì, ci sono degli elementi che sono di grossa forza, quelli che sappiamo tutti, cioè abbiamo un settore impresariale abbastanza molto, molto sofisticato e abbastanza innovativo. Abbiamo una performance molto buona forse negli aspetti più complessi della competitività, che sono quelli che hanno a che vedere con come dicevo, l'innovazione e la capacità del nostro settore privato realmente di spingere l'economia. Però se guardiamo gli aspetti più basici della competitività, per esempio la qualità delle istituzioni, la gestione governativa della cosa pubblica, se guardiamo all'efficienza del mercato del lavorativo, per esempio, se guardiamo ai fondamenti macroeconomici, lì veramente siamo molto bassi. Quindi una volta che facciamo una media, diciamo, ecco, il nostro indice è abbastanza complesso, abbiamo diversi pesi a seconda del livello di sviluppo in cui il paese si trova, questi sono i risultati. Ora, è vero che nel nostro indice c'è una parte di percezione, perché usiamo anche dei dati che vengono da un sondaggio che sono tutti gli anni con la business community nei vari paesi, quindi c'è sicuramente un elemento di pessimismo che noi abbiamo particolarmente. Un attimo, dottoressa, perché la sentiamo un po' disturbata, se vediamo di ripristinare anche il collegamento meglio. Ho capito che, insomma, lei dice abbiamo 12 indicatori, li mettiamo assieme, questo vale per molte indagini e classifiche. Nel caso specifico lei ha ragione che poi all'interno della vostra indagine l'Italia invece ha dei buoni risultati per quello che riguarda la sofisticazione del settore produttivo, siamo al 20° posto, la produzione di beni che si collocano in alto nella catena del valore, quindi beni a grosso valore aggiunto, i forti distretti industriali, anche un ampio mercato, siamo il noni al mondo, mentre abbiamo difficoltà innegabili nell'efficienza del mercato del lavoro, siamo praticamente al 117° posto su 133, perché è un mercato estremamente rigido, finanze pubbliche, sappiamo come è messo il debito pubblico, ci siamo al 128° posto, alto livello di corruzione, e anche qui purtroppo lo sappiamo, ci abbiamo fatto più di una puntata, il crimine organizzato. Però se adesso il collegamento, lei mi sente bene adesso, dottoressa? Sì, sì, io ecco, sento perfetto. Bene lei? Sì, molto bene. Se però, e questo l'ho capito, io vorrei capire una cosa però, il vostro sondaggio, siccome poi è importante, tutti i media lo riprendono a livello mondiale, viene elaborato su un insieme di dati statistici, cioè macroeconomici, duri, ma anche con 13.000 manager interpellati, no? Le chiedo più o meno quanti sono i manager in Italia che avete interpellato? Sono un centinaio normalmente. Ecco, io non vorrei che ci fosse una variabile, e mi riallaccio qua al discorso che faceva il ministro Tremonti prima. Tremonti. Una variabile imponderabile. E cioè, sappiamo benissimo che se tu chiedi a un italiano come va l'Italia, che sia manager o no, la definizione che arriva è una definizione molto, molto pessimistica. Se lo chiedo a un francese, sciovinista com'è, tendenzialmente ne parlano bene, questo vale anche per un inglese, un tedesco, cioè non, la componente culturale voi riuscite a considerarla? Perché se uno chiede a un italiano come vanno le cose, va sempre male, come va il tuo giro d'affari, va sempre male, quanto guadagni, troppo poco, cioè siamo un paese abbastanza di flagellanti, autoflagellanti, no? Sì, no, io sono d'accordo con lei. Sicuramente c'è una componente culturale e sicuramente nel caso dell'Italia pesa abbastanza, però è anche interessante vedere che le variabili dove l'Italia non va molto bene sono variabili dure, sono le variabili di macroeconomia, sono le variabili dell'efficienza del mercato lavorativo, che sono sì alcune variabili di percezione, però la maggior parte sono dati duri della Banca Mondiale. Quindi sì, sono d'accordo con lei, c'è sicuramente una componente di pessimismo o ottimismo, però quello che è importante dire è che nel caso dell'Italia sicuramente c'è una insoddisfazione da parte dei business people intervistati. E va bene, possiamo essere d'accordo che magari se fossero più ottimisti la posizione sarebbe magari 45, però non cambia il fatto che ci sono dei problemi a livello di variabili dure e a livello di determinanti basiche della competitività. Chi segue questo programma sa che io sono tutto tranne che nazionalista o... Però insomma, dire che l'Italia è al 48esimo posto e la Giordania è al 50esimo e l'Azerbaigian è al 51esimo significa o non aver mai visto la Giordania e l'Azerbaigian o non essere mai stati in Italia, oppure che gli strumenti ponderati con diversi pesi qualche distorsione la creano, perché obiettivamente va contro il buon senso. Io non ho nessun problema a dire che possiamo essere anche di 20 posizioni indietro alla Francia, penso al welfare, al sistema del Stato sociale francese, alla formazione che la Francia riesce a dare ai suoi corpi pubblici, all'ENA, o che siamo dietro la Germania sulle dimensioni di impresa, sugli investimenti, o che il nostro mercato del lavoro non arriva neanche lontanamente alla flessibilità britannica o scandinava, ma la Giordania e l'Azerbaigian che c'entrano? Beh, la Giordania e l'Azerbaigian sono paesi che tutti e due hanno investito molto negli ultimi anni proprio in queste riforme che noi non abbiamo fatto, della flessibilizzare il mercato lavorativo, migliorare in generale l'efficienza dei mercati. E l'Azerbaigian in effetti è uno dei paesi, è il paese che è migliorato di più nella classifica del Doing Business, o se conosce, della Banca Mondiale. Quindi secondo me non è tanto un fatto di dire ok, siamo fra l'Azerbaigian e la Giordania, è più una questione di dire ok, guardiamo alla valutazione globale dell'indice, guardiamo quali sono le aree dove comunque siamo in una posizione di 102 in stabilità macroeconomica, questi sono dati duri. Quindi secondo me appunto l'interesse non è tanto, e per noi del foro l'interesse non è tanto quello di dire ok, l'Italia è veramente numero 48, è tra questi paesi, è piuttosto di dire ci sono dei problemi molto forti che devono essere risolti, affrontati, guardiamoli quali sono, guardiamo nel dettaglio la valutazione dell'indice e cerchiamo di risolverli, perché diciamo che noi quello che vuole fare questo indice basicamente è di valutare il potenziale di ciascun paese a crescere nel lungo periodo secondo il suo livello di produttività del momento. Quindi è vero che probabilmente non ha molto senso mettere nello stesso ranking paesi che sono molto diversi fra di loro, però io dico noi lo facciamo perché abbiamo un ranking globale di 133 paesi, però anche in quel senso per un uomo politico, per una persona che si interessa appunto al miglioramento della competitività, magari ha più senso farsi dei ranking parziali, vedersi solamente con rispetto ai paesi che sono nostri pari in un senso. Però questo non cambia che ci sono degli elementi di grande debolezza, e nel momento in cui noi facciamo una ponderazione di tutti questi elementi che stiamo considerando, che sono comunque elementi che io credo che siamo tutti d'accordo, che sono importanti le istituzioni, sono importanti l'infrastruttura, l'educazione, sono tutti elementi che non penso che abbiamo una divergenza sulla loro importanza per un'economia competitiva. No, quando facciamo una ponderazione, questo è il risultato. Quindi... No, certo, guardi, allora, secondo me gli aspetti sono due, dico molto modestamente. È verissimo che singolarmente le varie voci che voi elencate ci ricordano quanto più volte diciamo, cioè che noi abbiamo delle, e devo dire che tutti i soggetti economici in questo paese lo ricordano, la Confindustria, ma non solo, i sindacati, cioè abbiamo delle debolezze infrastrutturali, mercato del lavoro, corruzione, efficienza del sistema giudiziario, soprattutto una giustizia civile, finanze pubblicate, è verissimo, no, lascia perplessi, cioè quello che esce come indice complessivo. Comunque io la ringrazio anche per la disponibilità a raccontarci poi nel dettaglio questa classifica. Grazie quindi all'economista senior del World Economic Forum in collegamento con noi da Londra, Irene Mia. Grazie mille. Dico perché poi vedo i messaggi che dicono ecco perché poi ha ragione Tremonti, e io devo dire che quando poi escono delle classifiche così è anche difficile non dare ragione al ministro quando dice che delle volte, no, questi organismi stilano classifiche, rapporti, così, perché poi alla fin fine, cioè, è meglio andare a vivere in Giordania e in Azerbaigian, non lo so, si fa imprese meglio in Azerbaigian e in Giordania, non lo so, mi sembra un po' dubbio, cerchiamo di non fare sempre come Tafazzi. Altra cosa invece è vedere di non farsi del male da soli, senza bisogno che ce lo dica World Economic Forum. Mi riferisco ai messaggi che stanno arrivando ancora sul ristorante Il Passetto. Si chiama Il Passetto, non ho nessun problema, se mi vuole querelare che ci quereli. La cosa scandalosa, penso che il Comune di Roma abbia deciso anche di costituirsi parte civile nella vicenda, perché non è accettabile che due giapponesi paghino, come è successo quest'estate, 685 euro. E poi, voglio dire, basterebbe in un paese normale andare a fare un bel controllo fiscale al ristorante Il Passetto, così vediamo se di fronte a queste cifre quanto dichiara. Magari scopriamo che, come la media dei ristoranti italiani, dichiara 15.000 euro lordi l'anno. Boh. Vedo di nuovo in diretta, no, vedo decine e decine di sms su due temi. Da un lato il ristorante Il Passetto, evidentemente eravate in vacanza per fortuna quest'estate, perché ne abbiamo parlato anche a Focus Economia. Non possiamo dire altro, ci sarà un tentativo di riconciliazione tra il vice sindaco di Roma, visto che a Tokyo in missione, e il turista che con la fidanzata ha pagato 685 euro. Il danno, tanto lo dico a chi scrive, c'è già stato, tutti i quotidiani asiatici, come se non si fossero già abbastanza occupati delle vicende italiane di queste, diciamo, maggio, giugno in poi, che anche quelle non è che fossero così edificanti, però si sono occupati di questi turisti che hanno pagato 700 euro. Il danno d'immagine è tremendo. Dopodiché, se si vuole far pagare al ristorante in questione, si fa una bella indagine fiscale e si vede quella che è la dichiarazione dei redditi, a mio avviso, però mi sbaglierò. Comunque, l'altra cosa invece che riguarda il World Economic Forum, attenzione, alcuni scrivono ma sbagliate a criticarli perché bisogna guardarsi allo specchio. Sì, siamo d'accordo che occorre guardarsi allo specchio, lo facciamo tutti i giorni, non mi sembra che questo programma sia così agiografico nei confronti del paese in generale, però bisogna vedere anche come lo specchio, perché se è uno specchio deformante non va bene. Ripeto, singolarmente presi, come ci ha raccontato la responsabile del rapporto per quello che riguarda la parte italiana in collegamento con noi da Londra, singolarmente presi sono tutti stimoli giusti: mercato del lavoro, corruzione e indebitamento. Se però poi si mettono assieme e viene fuori che siamo a livello degli azerbaigiani, io non ci sto più dentro come ragionamento, perché non capisco a cosa serva questa classifica se ci mette allo stesso posto la Giordania e l'Azerbaigian. Ma qualcuno c'è mai stato in Giordania? Lo dico a chi scrive, per favore. Voglio dire, ma occupiamoci di diventare come la Francia e la Germania piuttosto che dell'Azerbaigian. Ancora degli sms. Volete sapere del rapporto del Fondo Monetario Internazionale sull'Italia? È appena uscito e allora ve lo do subito. Il Fondo Monetario Internazionale rialza le stime, più 0,2% il prossimo anno l'Italia, quindi invece che lo 0,1%, anzi un meno 0,1 siamo un più 0,2. Questa è una buona notizia, perché lentamente i vari organismi internazionali stanno rivedendo a rialzo le stime, vale anche per come chiuderemo l'anno, meno 5,1%, qui ormai siamo a meno 5 e ce lo teniamo. Il Fondo Monetario Internazionale adesso però ci fa sapere che sulla ripresa dell'economia globale pesano i rischi dell'influenza A, e ce n'è sempre una, però, perché stavamo giusto cercando di capire se fosse messo in sicurezza il sistema finanziario. C'è anche l'influenza A, l'eventuale diffondersi in modo più virulento dell'influenza suina, che non è quella generata a Wall Street. Fondo Monetario Internazionale, ripresa lenta, leggo se a voi l'agenzia, è ancora presto per fermare le politiche di stimolo, quindi ancora presto per tornare ad alzare i tassi di interesse e chiudere i cordoni della borsa. La ripresa europea, sempre Fondo Monetario Internazionale dice, sarà modesta, i disoccupati cresceranno al 12% nel 2001. Vabbè, i mercati. Invariata Milano, leggermente positiva a Parigi, Francoforte, più 0,2 Parigi, più 0,3 Francoforte, Londra più 0,4, l'America più 0,3%. In colore la giornata per quello che riguarda gli indici, e invece sui titoli qualcosa si è mosso. Penso a Tenaris più 3%, Prismian più 2,3%, Autogrill più 1,90%, Bulgari più 1,80%, Buzzi più 1,7%. A2A più 1,6, Pirelli 1,5 come Steam Microelectronics, Fiat più 1,3 come Unipol, 1% percentuale, Finmeccanica ed Eni. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, di nuovo Steam Microelectronics, ma soprattutto oggi Tenaris, e direi di tenere Tenaris e anche Prismian. Sì, allora, per quanto riguarda ST, ieri i titoli si erano già risvegliati insieme a tutto il comparto dei chips, dopo che, ricordiamo, il fondo sovrano di Abu Dhabi ha rilevato una società appunto attiva nel settore. Poi comunque sono circolati anche altri rumor relativi al fatto che la Micron sarebbe interessata a Numonyx, una joint venture che è stata costituita tra Intel, Francisco Partner e la stessa ST, che possiede appunto il 49%. Per finire, inoltre, i titoli di ST hanno beneficiato anche della revisione al rialzo del giudizio espresso da Deutsche Bank, che appunto ha rivisto un po' al rialzo la valutazione dell'azienda. Insomma, tutte notizie positive che hanno continuato a spingere in alto le quotazioni nonostante il progresso di ieri. Per quanto riguarda Tenaris, invece, ieri l'amministratore delegato Rocca si è recato a Londra, ha incontrato la comunità finanziaria e, secondo quanto hanno riferito delle fonti, ha fornito indicazioni positive per i mesi a venire e conseguentemente appunto ha dato in là una serie di acquisti. Ancora, no, vedo alcuni messaggi. Comunque, poi leggiamo adesso perché mi veniva da ridere. Eleonora, andando avanti invece sui titoli, oltre a Tenaris, di cui tu ricordavi anche le indicazioni positive fornite ieri dal ministro delegato Rocca, abbiamo di nuovo in evidenza Buzzi Unicem e il titolo delle costruzioni. Buzzi adesso ha toccato di nuovo i 12 euro per azione. Esatto, c'è grande interesse per il comparto infatti del cemento, ovviamente si sono di nuovo risvegliati un po' i titoli più ciclici. Comunque, per quanto riguarda in particolare Buzzi, è stato anche un report positivo di JP Morgan a riaccendere i riflettori sulla società. Gli analisti della banca d'affari hanno infatti rivisto al rialzo la valutazione e quindi hanno avuto evidentemente seguito in borsa. Ancora, per quello che riguarda i titoli di Impregilo, abbiamo parlato ampiamente ieri, commessa da oltre 200 milioni vinta in Abu Dhabi per costruire un lotto del condotto delle acque reflue, e quindi il titolo bene si è mosso, molto bene si è mosso ieri, e devo dire che anche oggi ha portato a casa uno 0,6%. Su Telecom oggi invece giornata altalenante, era aperta bene, poi invece ha chiuso invariata. Popolare di Milano meno 3,2. Guarda, la Popolare di Milano è andata male, ma io ascolto più che guardare, però posso anche provare. Sì, sono andate male tutte le banche più o meno a Milano, e ovviamente chi con segni più come la Popolare di Milano, ma sono andate tutte giù. Questo perché, diciamo, innanzitutto sono i titoli che quest'estate hanno corso di più e conseguentemente evidentemente gli investitori hanno deciso di portare a casa le plusvalenze realizzate nelle ultime settimane. Comunque, a dare il là ai realizzi, diciamo, è stato anche un articolo pubblicato dal Financial Times secondo il quale maggiori vincoli imposti alle banche sui coefficienti patrimoniali stabiliti dalla nuova normativa Basilea 2 renderanno sempre più difficili il pagamento dei dividendi e le operazioni di buyback, che invece avevano sostenuto proprio le azioni delle banche, soprattutto di quelle italiane. Adesso le informazioni per chi è in viaggio, poi commentiamo altre notizie. Tra l'altro vedo che su Telecom Italia non è servito, non c'è stato l'effetto Deutsche Telekom e France Telecom. Cosa è successo? I due colossi tedesco e francese della telefonia sul mercato britannico hanno deciso di unire le due attività e quindi diventeranno il primo, questa fusione tra Deutsche Telekom e France Telecom in Gran Bretagna, farà sì che diventeranno il primo operatore di cellulari nel paese, superando O2, che è Telefonica, che attualmente è il numero uno in Gran Bretagna. Le informazioni per chi è in viaggio, dicevo, e poi altri titoli, poi le obbligazioni Fiat. È vero, avete ragione, il ristorante Il Passetto, così continuiamo, è stato chiuso, ma secondo me non basta, occorre un'azione civile, e vale per i ristoranti romani, per i ristoranti milanesi, per quelli veneziani, per quelli di Forte dei Marmi che fanno pagare 11.000 euro ai russi, vale per tutti, almeno ci sia una corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, per non essere proprio, per usare un termine molto apprezzato dagli economisti, cornuti e mazziati. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, tra i migliori, Seat Pagine Gialle più 12%, Elica più 11,3%, tra i peggiori in assoluto invece l'aeroporto toscano meno 6,2%, Società Generale meno 4,5%. In una battuta, Eleonora Micheli, Seat Pagine Gialle più 12,7%. Guarda, le Seat si sono risvegliate soprattutto sul finale, e tra l'altro anche i volumi sono consistenti, è passato di mano il 3,8% del capitale sociale. I trader sostengono che la società, rispetto ad alcuni concorrenti, abbia buone valutazioni. Pare inoltre che appunto magari nei prossimi mesi soprattutto il business legato a internet possa avere dei miglioramenti, e quindi su queste basi appunto i titoli di Seat si sono risvegliati proprio sul finale. Grazie, grazie Leonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Fiat ha fatto più 1,3%. Sì, giustamente fate notare che deboli oggi sono risultati anche Intesa San Paolo, meno 1,8%, e Banca Popolare meno 1%. L'1% l'ha perso anche UbiBanca e Ansaldo. Lo 0,70 sia il Monte dei Paschi che l'Unicredito. Fiat, dicevamo, più 1,3%, anche se la notizia su Fiat oggi non riguarda le azioni Fiat, ma le obbligazioni. Un miliardo e 250 milioni di euro di emissione obbligazionaria con un rendimento al 7,75%, un'obbligazione a 5 anni che Fiat è pronta a collocare. L'annuncio è arrivato questa mattina, mercato appena aperto, annuncio dello stesso Lingotto, lo collocheranno BNP Paribas e Royal Bank of Scotland assieme a Société Générale. Andrea Malan, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. A che servono questi soldi la Fiat? Beh, diciamo che servono, come direbbero i comunicati, agli utilizzi generali del finanziamento del business. Non dovrebbe esserci un'esigenza particolare di finanziare, che ne so, acquisizioni. Sappiamo che quella della Chrysler è stata a costo zero, né altre operazioni in arrivo. Diciamo che ci sono comunque, come per altro, per tutti i colossi dell'auto, l'uscita per il Lingotto da una serie di mesi in cui andare sul mercato per finanziarsi era estremamente difficile. Ricordiamo che tutti hanno più o meno avuto le loro difficoltà, la Fiat ha avuto difficoltà all'inizio dell'anno a raccogliere una linea di credito da un gruppo di banche, il governo francese è dovuto intervenire finanziando direttamente Renault e Peugeot. Rispetto a sei mesi fa le condizioni sono completamente cambiate, tutti ne approfittano per tornare sul mercato. La richiesta del mercato di titoli industriali in generale, di bond a buon rendimento, è molto elevata, anche dati i rendimenti oramai estremamente bassi cui sono scesi i titoli di Stato, per cui c'è, diciamo, un recupero rispetto a questo vuoto che c'era stato nei mesi precedenti. Non dimentichiamo che in Europa ancora il mercato degli ABS, cioè delle cartolarizzazioni, è invece ancora abbastanza, ecco, indietro. Andrea, per far capire a tutti, il fatto che Fiat poi offra rispetto all'ultima obbligazione, l'obbligazione, lo sapete, è una richiesta di un prestito, io chiedo un prestito, in cambio mi obbligo, certo, a ritornare questi soldi con un interesse come titoli di Stato. Però due mesi fa Fiat aveva offerto un rendimento più alto, cioè per riuscire a raccogliere questi soldi aveva offerto, se non ricordo male, un punto e mezzo in più, quindi siamo sostanzialmente, tra l'altro, su un titolo a tre anni. Oggi è un quinquennale. Ecco, il fatto che offra meno vuol dire che si sente più sicura che tanto le obbligazioni verranno comprate, sottoscritte. Assolutamente, i rendimenti di mercato medi sono scesi perché c'è più domanda, come dicevo, da parte dei risparmiatori, degli investitori, sia piccoli che istituzionali. Per questo è possibile collocare titoli a tassi inferiori che permettono un risparmio consistente sui costi per l'azienda che emette, in questo caso Fiat. Altra cosa, insomma, i soldi servono sempre nella vita e anche a Fiat, però c'è già un'idea, è per la scadenza di altri prestiti come tu accennavi, o ci potrebbe essere qualcos'altro? No, secondo me appunto è come fanno sapere più o meno da Torino un semplice nell'ambito un rifinanziamento, un programma regolare di rifinanziamento in previsione di sia linee di credito in scadenza che bond. Di bond Fiat ne ha due che giungono a scadenza, uno nel 2010, cioè l'anno prossimo, tra meno di un anno, e uno nel 2011, quindi diciamo che è anche in previsione di queste scadenze che, in vista del momento molto favorevole sul mercato, il Lingotto ne approfitta e appunto fa questa emissione oggi. Ultima domanda che non c'entra con le obbligazioni, però insomma è una cosa che mi titilla molto, ma la vicenda General Motors, Fiat non ci sta, il dossier non è più stato riaperto, è chiuso, però in Germania si sono ben italianizzati, perché li abbiamo contagiati, nel senso che stanno gestendo la cessione di Opel come un po' noi abbiamo gestito quella di Alitalia, per cui insomma prima fanno una gara, poi non gli piacciono i compratori, poi scelgono questo gruppo austriaco, canadese, russo, poi General Motors ha paura che i russi prendano la tecnologia di Opel. Diciamo che le somiglianze sono più di una. Le due più rilevanti sono il fatto che le aziende vanno male, molto male, Opel ha perso soldi per quasi 10 anni di fila, e il fatto che ci siano le elezioni di mezzo. Il governo tedesco è ormai a 3 settimane dalle elezioni, gli sarebbe molto piaciuto arrivare dagli elettori con la grana Opel risolta. Invece probabilmente, poiché il venditore, che non dimentichiamolo è sempre la General Motors, non è d'accordo con il compratore, tra virgolette, scelto dai tedeschi, la cosa si trascinerà con ogni probabilità, oramai quasi certo, dopo le elezioni, quindi dovrebbe andare a fine di questo mese o più probabilmente all'inizio del mese prossimo. A questo punto gli americani sperano che dopo le elezioni arrivi a Berlino una maggioranza più favorevole a una cessione di Opel, o comunque meno contraria ai tagli che saranno necessari per risanare l'azienda, e quindi sperano che la cosa possa procedere in un senso più favorevole a loro, che attualmente è o la vendita alla finanziaria RHJ, che permetterebbe a GM di tornare in campo successivamente, o addirittura, come qualcuno ha suggerito e come stanno valutando a Detroit, l'ipotesi di tenere la Opel, far finanziare dalle banche un tentativo di risanamento e quindi cancellare la vendita. Non dimentichiamo che GM, se vendesse la Opel, rinuncerebbe a quasi 2 milioni di auto vendute e uscirebbe praticamente dal mercato europeo. Insomma, poche idee ma confuse, mi sembra, sulla vicenda Opel. Anche in Germania staremo a vedere. È chiaro che, come tu ricordavi Andrea, tutto si sbloccherà, almeno da quello che si capisce, dopo le elezioni tedesche. Grazie Andrea Marande, Sole 24 Ore. Voi non criticate mai il governo, dicono alcuni ascoltatori, a parte il fatto che non mi sembra una linea editoriale criticare o non criticare il governo. Andiamo a parlare di fatti, dopodiché non sono d'accordo, e soprattutto chi ascolterà la seconda ora del programma faremo notare così un po' di divergenze, si può dire, tra quello che ha detto oggi il Presidente del Consiglio Berlusconi sulle banche soprattutto, e quello che invece ha detto anche il Ministro Tremonti. A noi è sembrato leggermente non sulla stessa linea i due interventi di Berlusconi e di Tremonti. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, lasciamo stare le polemiche che continuano via SMS sulla classifica del World Economic Forum, che ha visto l'Italia, assieme quanto a competitività mondiale, viaggiare assieme alla pattuglia di stati come Azerbaigian e Giordania. Abbiamo già espresso tutte le nostre perplessità alla curatrice del rapporto in collegamento con noi da Londra, pur riconoscendo tutti i limiti, difetti, elementi frenanti di questo paese, ma insomma, cioè dire che siamo a livello, siamo competitivi come l'Azerbaigian, non lo so, lascia perplessi. Fondo Monetario Internazionale è uscito con le nuove previsioni per l'autunno, una fragile economia globale ancora vulnerabile ad una serie di shock. Grazie, non avevamo capito. La ripresa è lenta, è ancora presto per uno stop alle politiche di stimolo, quindi i governi continuano ad aiutare a stimolare l'economia. La ripresa in Europa sarà modesta, i disoccupati però saliranno al 12% nel 2011, auguri ai vari governi, questo lo aggiungiamo noi. E poi le svalutazioni operate dalle banche potrebbero arrivare a 2.800 miliardi. Questa è bellissima perché in sostanza dice il Fondo Monetario: complessivamente il danno causato da questa crisi alle banche, i titoli che hanno in portafoglio e che sono tossici, che valgono carta su carta, niente, potrebbero arrivare a 2.800 miliardi. Però 1.500 miliardi le banche non li hanno ancora certificati. Interessante, bisogna capire quando ci faranno sapere che hanno 1.500 miliardi di svalutazioni da operare. Nel frattempo, scendendo all'Italia, oggi, come dicevamo, Federmeccanica ha presentato il rapporto relativo al secondo trimestre 2009 dell'industria metalmeccanica, che è la principale industria manifatturiera in Italia. Stiamo parlando di 60.000 imprese e 1.600.000 addetti, giusto per dare dimensioni. Meno 33% la produzione industriale nel secondo trimestre, meno 3% l'occupazione, più 572% il ricorso alla cassa integrazione da gennaio a luglio del 2009 rispetto a gennaio a luglio 2008, quindi sestuplicato il ricorso alla cassa integrazione, come ha ricordato Luciano Miotto, vicepresidente di Federmeccanica. Questo rapporto evidenzia ancora lo stesso andamento, anche se leggermente rallentato, di quello del primo trimestre. Si evidenzia ancora un calo dei fatturati, un calo della produzione, che nel nostro settore metalmeccanico si muove tra un 31-32% per quanto riguarda gli elettrodomestici, raggiungendo picchi veramente drammatici del 45% per quanto riguarda l'automotive e i rimorchi. Questo si traduce poi in una diminuzione ovviamente delle ore prodotte. Siamo ricorsi a 238 milioni di ore di cassa integrazione, tra cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione speciale. Questo, se lo vogliamo trasformare in numero di occupati, sarebbero 220.000 esuberi. È chiaro che gli ammortizzatori sociali hanno fatto la loro parte e attualmente siamo riusciti, sia ricorrendo alla cassa integrazione ordinaria e per chi ha finito la cassa integrazione ordinaria ricorrendo alla cassa integrazione straordinaria, siamo riusciti attualmente a salvare i posti di lavoro, però ci troviamo a un fine corsa, nel senso esistono aziende che hanno finito le 52 settimane e diventa drammatico dover risolvere il problema, perché i segnali, che sia pur vero ci arrivano un po' da elementi internazionali, da agenzie eccetera, non sono tali da farci pensare a una ripresa veloce. Siamo anche noi dell'idea che probabilmente il fondo è stato toccato, però la ripresa dal nostro punto di vista rischia di essere molto lenta e abbiamo un po' esaurito quelli che erano o che sono gli ammortizzatori sociali. E poi il vicepresidente Federmeccanica Miotto ha fatto anche un riferimento al rinnovo contrattuale, perché ha detto: vista la situazione sarebbe opportuno rinviare gli aumenti salariali. Io ricordo che la ripresa della trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici è fissata per il prossimo giovedì 10 settembre, quindi dopodomani, nella sede della Confindustria. Sentiamo Miotto. La trattativa riprende dopodomani, questo è un fatto noto. Tutti sono invitati al tavolo, tutti cercheranno di dire la loro e mi auguro che si riesca, con le regole stabilite il 22 aprile, a trovare una soluzione che vada bene a tutti, soprattutto agli lavoratori e alle aziende, per riuscire ad avere un futuro migliore o, prima di tutto, almeno uguale a quello che avevamo. Non sono né ottimista né pessimista, sono realista, ognuno deve fare la sua parte, noi faremo la nostra, il sindacato dovrà fare la sua e penso che lo farà. We'll be right back. questi i dati di Federmeccanica. Nel frattempo oggi a Milano due eventi: da un lato la presenza del Presidente del Consiglio alla presentazione della Fiera del Tessile Milano Unica, e ne parleremo dopo le informazioni per chi è in viaggio; dall'altro la presentazione alla stampa del Master Plan dell'Esposizione Universale, l'Expo 2015. Nel corso della conferenza stampa, Lucio Stanca, amministratore delegato di Expo 2015, ha illustrato anche la tempistica per la realizzazione del sito dell'Expo, e poi ha detto: mi dispiace per i gufi, Expo ha tutti i fondi e noi vogliamo sfruttare al meglio questa straordinaria opportunità. Sentiamo Stanca, che però poi, visto che lo ha evocato, si prenderà anche il nostro gufo. Oggi presentiamo l'idea di base concettuale del sito. Dopodiché, da domani, praticamente stiamo già lavorando, svilupperemo come società Expo 2015 il piano generale del sito espositivo, che impegnerà l'ufficio di piano, che avrà anche una locazione che pensiamo di presentare alla stampa alla fine di settembre. Questo è un lavoro che ci impegnerà da qui ad aprile del 2010. Lo presenteremo per l'approvazione al BIE e dopodiché da autunno del 2010 fino all'estate 2011 le varie parti componenti del piano, che allora sì avremo un piano, saranno oggetto poi di concorsi internazionali di progettazione, quindi aperti alla comunità nazionale e internazionale per avere un contributo di progettazione. Finita questa fase, ovviamente, quindi da fine 2011 a fine 2014, invece poi avremo le gare di appalto per la costruzione e la realizzazione del sito. E visto che Lucio Stanca ha detto mi dispiace per i gufi, noi il gufo lo facciamo sentire, adesso vi spieghiamo anche perché. Facciamo solo notare che dal 2011, se abbiamo ben capito, dal 2011... terminerà la fase, diciamo, del progetto, e poi a quel punto appaltati i lavori potranno partire. A noi risulta che l'Expo sia nel 2015, insomma, partire nel 2012 per la costruzione. Auguri a Lucio Stanca, auguri a tutto l'Expo. Mi sembra che quanto a figura di inefficienza su questa vicenda che spesso abbiamo commentato, ci siamo, stiamo ancora ragionando nel 2009 del master plan che arriverà nel 2010, dei bandi che arriveranno nel 2011. E questa è la velocità lombarda. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Vedo dei messaggi al 349-238-6666. Siete polemici con l'Expo? No, facciamo solo notare, perché ci pagano anche per questo, che ci è voluto un anno per eleggere il presidente dell'Expo. Glisenti, non glisenti, poi è arrivato Stanca, che la prima preoccupazione del presidente Stanca è stata la residenza Palazzo Reale, non nella villa di Monza, nella villa vicino all'Expo, e che dalle dichiarazioni che abbiamo sentito si dice che nel 2010 arriverà il master plan, nel 2011 bandi di gara. Ci chiediamo se, visto che l'Expo è stato vinto su un progetto, se non possano essere accelerati i tempi. Tutto qua, ci mancherebbe. Evviva l'Expo. Allora, Berlusconi che oggi ha dichiarato che occorre fare squadra nel governo, ed è innegabile, e fare squadra, la politica deve dare un segnale disastroso, sta dando un segnale disastroso, tutti contro tutti, è necessario fare squadra per superare la crisi. Berlusconi ha anche confermato che ci sono segnali di ripresa e si è definito missionario di ottimismo. Io sono un missionario dell'ottimismo e della fiducia da sempre, ho subito tutti gli attacchi di coloro che invece fanno il tifo per la crisi, e credo di essermi preso anche tante contumelie, perché una volta, mi sembra, davanti agli imprenditori, ai giovani imprenditori a Santa Margherita, ragionando, ho detto, senza voler essere particolarmente cattivo, ma facendo un'osservazione tutto sommato ovvia, che un imprenditore che affidasse la promozione di un proprio prodotto a un giornale fattore di crisi, un giornale che predica il catastrofismo, il pessimismo, eccetera, sarebbe un imprenditore masochista. Di masochisti credo che in giro tra gli noi imprenditori ce ne sono pochi, ma forse qualcuno ce n'è. Ecco, bisognerebbe che tutti insieme, in modo corale e più forte, pensassimo di andare a dire a chi fa ancora il missionario della crisi: beh, è ora di smetterla, renditi conto che la cosa di cui abbiamo da avere paura è soltanto la paura, perché il fattore psicologico è stato nel mondo intero il fattore che maggiormente ha determinato la crisi. Barisoni, sei un disfattista, la pubblicità negativa fa male all'Expo e al paese, vergogna. Eh sì, siamo noi che abbiamo ritardato la nomina del presidente, la bagarre che si è creata, il cancellamento di alcune opere, tra cui Raggi Verdi, siamo noi. E va bene, continuiamo così, guardiamo il dito e non la luna, andiamo avanti. Il presidente del Consiglio Berlusconi ha detto: no, non possiamo gettare accuse indiscriminate ai direttori di banca che magari di fronte a certe situazioni aziendali sono timorosi rispetto alla concessione del credito. Abbiamo in giro un'atmosfera, si dice, le banche non corrispondono alle richieste delle aziende, limitano il credito. Mettiamoci un po' anche nei panni delle banche. Io sono figlio di un direttore di banca, mio padre mi spiegò in maniera molto chiara che le banche sono lì per far credito, ma siccome il credito lo fanno con i soldi dei risparmiatori che danno la loro fiducia alla banca, devono fare buon credito e non cattivo credito. Cioè, quando danno i soldi devono domandarsi: ma chi li riceve sarà poi in grado di restituirmeli? E credo che quindi non possiamo gettare un'accusa indiscriminata su direttori di banche che di fronte a certe situazioni aziendali hanno paura di dare una risposta positiva alla domanda di credito. Però per fortuna è una percentuale molto minima quella delle aziende che non hanno risposta dal nostro sistema bancario. Così il Presidente del Consiglio, devo dire che è inattaccabile quando dice che il direttore di banca poi non decide da solo e deve rientrare in alcuni parametri. In effetti spesso le critiche sono state mosse più alle strategie complessive delle banche che non al singolo direttore di filiale, ci mancherebbe, risponde delle direttive. Noto però, e adesso ve lo facciamo riascoltare, che il Ministro Tremonti da Cernobbio sul ruolo delle banche nel ridistribuire non tanto il reddito, perché non è il loro compito, ma nell'essere un tramite attraverso i Tremonti Bond di un aiuto dello Stato alle piccole imprese, la pensa in maniera leggermente diversa, nel senso che Tremonti è stato molto chiaro da Cernobbio, ha detto: attenzione, le obbligazioni di Tremonti Bond non erano fatti per salvare le banche, ma erano fatti perché le banche li girassero soprattutto ai piccoli e medi imprenditori. I bond, ebbene, su quello c'è ancora moltissimo da fare. Tenete conto che i bond hanno un moltiplicatore da 1 a 10, e quindi per 10 miliardi di titoli hai 100 miliardi possibili di finanziamenti alla piccola e media impresa. Questo è nell'interesse del paese, alla piccola e media impresa, alle famiglie, ai lavoratori, non è nell'interesse delle banche, perché quegli strumenti non sono fatti per le banche, sono fatti per le imprese. E quando le banche ti dicono che non gli servono, che non gli vanno bene, dicono una cosa che è contro l'interesse del paese, perché non sono fatti per le banche, sono fatti per le imprese. E non sono stati fatti da noi, sono stati chiesti dalle banche, sono stati disegnati in Europa, dall'Europa, come meccanismo, come tasse di interesse. Io quando sento dire 8,5 è troppo per prendere denaro, non prendo un denaro, prendo un capitale, che è una cosa totalmente diversa. E comunque quel numero l'ha messo l'Europa, non l'abbiamo messo noi. Il problema di quei bond non è il mercato dei capitali, l'ingegneria, quanto e come si inseriscono nel bilancio delle banche, quanti soldi vanno alle piccole e medie imprese. Quegli strumenti aumentano la base patrimoniale delle banche, il Core Tier 1, ma non per finanziare o rafforzare le banche, ma per finanziare la piccola e media impresa. Sono un ponte che passa attraverso le banche verso la piccola e media impresa. Se su quel ponte c'è un signorotto che dice che il diritto di passaggio gli va o non gli va, non è giusto. Non è giusto non nei confronti del governo, non è giusto nei confronti delle famiglie, dei lavoratori, degli imprenditori. Noi continuiamo a notare una leggera differenza nel giudizio che dà il Ministro dell'Economia sullo snodo importante che le banche rappresentano, non nel dare credito rischioso, questo non lo vogliamo più vedere, però insomma i rischi se li sono presi sulle obbligazioni strutturate, sui credit default swaps, sui derivati, non se li sono presi tanto con gli imprenditori, tranne che con alcuni, grandi nomi, Risanamento, Zunino, ma insomma i piccoli imprenditori hanno visto poco di rischio e adesso gli si chiede di rientrare. È diverso il giudizio, come abbiamo sentito oggi, del Presidente del Consiglio Berlusconi. A noi sembra così, ma sarà che, come dicono alcuni ascoltatori, siamo dei pirla disfattisti. Andiamo avanti invece con le cose serie, e cioè la proposta del Presidente del Consiglio che, parlando agli imprenditori del tessile all'inaugurazione di Milano Unica, ha annunciato che entro 2, massimo 3 settimane sarà convocato un tavolo per discutere proprio sulla defiscalizzazione del secondo livello di contrattazione, proposta arrivata 2 settimane fa dal ministro Sacconi in un'intervista al Corriere della Sera. Ha detto Sacconi: potremmo agevolare la contrattazione aziendale defiscalizzando in parte la quota di salario che viene contrattato non nel contratto unico ma in quello aziendale, quindi la contrattazione di secondo livello. Nuove iniziative? Siamo a disposizione. Ecco, il Presidente mi ha chiesto prima, siamo molto interessati alla defiscalizzazione e alla decontribuzione, soprattutto per quanto riguarda gli stipendi di secondo livello. Ha il mio impegno, Presidente, ad un tavolo nel giro di 2-3 settimane, entro il mese di settembre apriremo il tavolo, ci siederemo come abbiamo sempre fatto e si ragionerà soprattutto per quella parte di aumento legato alla produttività o agli utili aziendali. Parola. Vedremo quindi fra 2-3 settimane cosa uscirà dal tavolo che ha annunciato oggi il Presidente del Consiglio. Per oggi è tutto da questa puntata di Focus Economia. Grazie e un auguro di buona serata da Sebastiano Barisoni a tutti, a chi piace il programma e a chi invece non lo sopporta. Noi comunque ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Focus Economia.